Prosegue il corso Mishnah del Kollel Torah a Roma. Abbiamo visto nella scorsa Mishnah che è stata la terza del terzo capitolo intitolato Hamafkid del trattato Bava Metzia. Abbiamo visto come trattare una situazione in cui non si sa bene del denaro o dei beni che valgono denaro, come comportarsi quando non si è sicuri della proprietà, di chi sia il vero proprietario. Oggi proseguiremo sempre su un discorso simile, molto simile a questo, e cercheremo anche di capire, qualora ci fosse del denaro per il quale è impossibile risalire, almeno al momento, è impossibile risalire alla sua proprietà, a chi è davvero il proprietario del denaro, cosa ci si fa? Leggiamo la nostra Mishnah, che appunto è la quarta Mishnah del capitolo. La Mishnah dice così: Shnaim shehifkidu etzel echad, due persone che hanno affidato ad una terza persona, ognuno una somma, non una somma uguale, ma ze mané ve ze mataim. Ci ricordiamo cosa significa mané? Mané è una moneta del valore di 100 zuz, e quindi mataim, che significa 200, sarebbe il doppio, 2 mané, 200 zuz. Allora, qual è il caso? Ricordiamoci, noi siamo il Bet Din, ci viene davanti il caso, la situazione. Due persone, chiamiamoli Reuven e Shimon, hanno affidato uno 100 e l'altro 200 in mano a la terza persona, che la chiameremo Levi. Ok? Uno ha dato 100, l'altro ha dato 200, e ora quando tornano a riprendere, a riscuotere il proprio denaro da Levi, Levi dice, non mi ricordo di chi erano i 100 e di chi erano i 200. Ma il problema non è questo, il problema è che ognuna delle due persone, Reuven e Shimon, entrambe dicono, io sono quello che ti ho affidato la somma di 200. Nelle parole della Mishnah, torniamo a leggere, Ze Omer, il primo dice, Sheli Mataim, i 200 sono miei, che sono stati affidati, Ve Ze Omer, e il secondo dice, Sheli Mataim, no, sono io che ho affidato a te 200. E cioè cosa è successo? Nel momento in cui è venuto fuori che Levi, e ora vedremo magari anche il perché, Levi non sa distinguere quali sono stati affidati dall'uno da Reuven e quali sono stati affidati dall'altro da Shimon, una delle due persone diventa furba, dice, ah, ecco qui la mia opportunità per guadagnarmi, in realtà rubare, però questa è una persona furba, un eventuale ladro potrebbe essere, dice, no, i 200 sono miei, l'altra persona, anche i 200 sono miei. Come ci dobbiamo comportare? È chiaro che il Shomer Levi deve ridare ad entrambe le persone quello che è stato affidato, ma non sa quanto dare a chi. E quindi veniamo davanti al Bet Din e facciamo la domanda, poniamo il problema. Ora, noi abbiamo già studiato in passato che qualora lo Shomer, il guardiano, la persona alla quale è stata affidata la somma o il bene che sia, è responsabile, avrebbe dovuto comportarsi in maniera differente, avrebbe dovuto distinguere dall'inizio, scrivere o in qualche maniera farsi un segno. Non avendolo fatto, forse dovremmo dire, come abbiamo già detto in passato, la colpa è sua e dovrà restituire 200 a entrambe le persone. Se entrambe le persone fanno un giuramento e dicono noi abbiamo dato 200, forse lui dovrebbe fare il pagamento di 200 e perdere 100 dalla propria tasca. Ma la Mishnah non dirà questo. La Mishnah dirà che ognuno riceve solamente 100. Cioè, quanto è sicuro che ognuno ha affidato almeno 100. Quindi Levi ridà 100 a uno e 100 all'altro. Perché non 200 all'uno e 200 all'altro? Perché noi non consideriamo, la Gemara spiega, quando analizza questa Mishnah, la Gemara spiega che non consideriamo qui Levi qualcuno che è venuto a meno nella sua responsabilità, perché in un caso normale avremmo considerato Levi uno che è venuto a meno della sua responsabilità. Un caso normale sarebbe stato un caso in cui Reuven avrebbe portato un giorno 100 e lui avrebbe detto io ti affido 100, e in un altro contesto, in un altro giorno, in un altro momento, Shimon avrebbe portato 200 e affidati a Levi. Allora Levi avrebbe una responsabilità totale di ridare ad ognuno quello che ha dato. Nel momento in cui non si ricorda è colpa sua e avrebbe dovuto risarcire in questo caso 200 ad ognuno. Ma qui il caso è diverso. La Gemara spiega che qui parliamo di un caso in cui la responsabilità di Levi è minore perché Reuven e Shimon hanno affidato insieme la somma. Anche in un unico portafoglio, in un unico involucro. Levi da questo, quando riceve il denaro in questa maniera, capisce che o stanno lavorando insieme, o non hanno tanti problemi tra di loro, si fidano l'uno dell'altro, e allora lui si appoggia a questo loro comportamento per dire ok, questa è una cosa che mi è giunta tutta insieme, la ridarò tutta insieme. E non si aspetta una situazione in cui appunto poi viene fuori che uno vuole i suoi 200 e l'altro se ne approfitta e dice no, anch'io ho dato 200. In un caso di questo genere la responsabilità alla quale teniamo, il livello di responsabilità al quale teniamo Levi, la terza persona, è minore. E quindi cos'è che deve restituire? Leggiamo la Mishnah. Noten lezemane velezemane. Dà all'uno un manè, il 100 zuz, e all'altro ugualmente 100 zuz. Domanda che ci poniamo, cosa ne sarà del altro manè, del terzo centinaio? Cosa ci si fa? Sicuramente non è di Levi, gli è stato affidato. Ora, prima di vedere cosa dice la Mishnah in questo riguardo, leggo il commento del Rambam, che appunto prendendo dalla Gemara quello che vi ho detto prima, per quale motivo il livello di responsabilità al quale teniamo Levi è minore qui. E le parole del Rambam nel suo commento alla Mishnah sono: Ze hadin hu, questa regola è valida, che shenatnu hashelosh meot dinarin bekis echad, quando hanno dato le 300 monete in un unico portafoglio. Fi sheyomar lahem, perché in questo caso Levi potrebbe dire a loro Kevan sheraiti shaya benichem min ha'achva vehanemanut kol echad mikem lachavero, visto che io ho riscontrato tra di voi una fratellanza, un comportamento di fiducia assoluta da uno all'altro, tra di voi due, Reuven e Shimon, fino al punto che il vostro denaro lo avete consegnato e affidato a me in un unico involucro, allora lo alla alibi, non mi è venuto in mente l'iscor di ricordare e distinguere le mihem hamea u le mihem hamataim, chi è il proprietario dei 100 e chi è il proprietario dei 200. Quindi la Mishnah dice lui dovrà ridare all'uno 100 e all'altro 100. Reuven e Shimon entrambi ricevono solamente 100. E quindi torniamo alla nostra perplessità. Cosa ne sarà dell'altro 100? Dice la Mishnah, Vehashear Yeheimunach ad Sheyavo Eliyahu. Non abbiamo in questo momento nessun modo di capire a chi appartiene il 100 rimanente, e quindi rimane lì, munach, rimane, fino a quando rimane? Ad sheyavo Eliyahu, finché non verrà Eliyahu Hanavi. Significa, noi crediamo che il Mashiach verrà, sarà introdotto da Eliyahu Hanavi, e la tradizione ci insegna che Eliyahu Hanavi scioglierà eventuali dubbi che sono nati nel corso del tempo, e per i quali non c'è stata possibilità di sciogliere quei dubbi, Quando verrà Elia Hanavi da profeta, lui scioglierà quei dubbi. Allora noi diciamo, il Bet Din tiene quei 100 zuz, quel manè, e lo tiene fino alla prossima possibilità di trovare una soluzione. Se dovesse venire fuori un nuovo dato, se viene fuori un testimone o due testimoni, una testimonianza valida, che di cui non sapevamo prima, e ci dirà, no, guardate che era Reuven che ha dato 200 e Shimon ha dato 100, allora daremo l'altro 100 a Reuven. Nella mancanza di qualsiasi tipo di informazione, di dati sui quali costruire una risposta al caso, allora devono rimanere fermi. Ovviamente non presso Levi, che era solamente il guardiano che doveva salvaguardare quel denaro, ma il Bet Din si prenderà la responsabilità di tenere da parte quel denaro finché Yavò Eliyahu, finché verrà Eliyahu. Ora, tra l'altro, questo termine, questa frase Aci Yavò Eliyahu finché verrà Eliyahu è una cosa abbastanza comune che troviamo in casi appunto dove non è possibile sciogliere un dubbio, secondo gli strumenti che abbiamo in questo momento. Ora, questo insegnamento che la Mishnah ha dato, in realtà, non è condiviso da tutti. Abbiamo detto, la prima opinione citata nella Mishnah si chiama la opinione del Tana Kama, del primo Tana della Mishnah, che in questo caso è anonimo, e in realtà rappresenta la maggioranza delle opinioni dei Chachamim della Mishnah. Ma vedremo un'opinione minoritaria di un unico Chacham, di un unico Tana, che è Rabbi Yosè. Vediamo un po'. Proseguiamo la Mishnah, che dice, Amar Rabbi Yosè, disse Rabbi Yosè, imken, se così fosse la regola, cioè che si ridarà il minimo, che è sicuro, 100 e 100 a entrambe le persone, e l'altro 100 rimarrà lì, Ma hifsid haramai. In questo caso, cosa avrebbe perso quello che ha cercato di fare il furbo? Quello che ha cercato Ramai, letteralmente è colui che inganna. Il furbo cosa guadagna? E scusami, cosa perde? Cosa perde il furbo? Lui ha detto di aver dato 200, era una bugia, in realtà ne ha dati 100 e riceve indietro i suoi 100. Rabbi Yosè dice, e in realtà in maniera anche un po' sorprendente, che dovremmo lasciare tutta la somma presso del Bet Din finché Yavò Eliyahu. Leggiamo, e la accoglie Heimunach ad she Yavò Eliyahu. Tutto sarà e rimarrà lì fino a che non verrà Eliyahu, fino a che non ci sarà un'altra soluzione. Molto strano. Rabbi Yosè dice non solamente che non è d'accordo con il Tana Kama, con la prima opinione riportata nella Mishnah, che come abbiamo detto è l'opinione di maggioranza, ma spiega anche il perché. Rabbi Yosè dice, tu il Tana Kama, tu cosa stai cercando di fare nel momento in cui dici dai uno a uno 100 e l'altro 100? Stai dicendo cerchiamo di minimizzare il punto sul quale c'è conflitto. Ciò che è chiaro e è incontestato, intanto risolviamo quella parte. In altre parole, la Mishnah con questo ci sta insegnando che qualora ci trovassimo davanti ad una situazione che non è completamente risolvibile, ma è in parte risolvibile, bisogna risolvere la parte che è risolvibile. In altre parole, rendere, minimizzare la parte contestata. Anche questa è una soluzione, fino ad un certo punto. E per ora Rabbi Yosè non è d'accordo con questa cosa. Rabbi Yosè dice, beh, il furbo deve essere punito qua. Se noi entrassimo nella testa del furbo, lui, nel momento in cui gli vengono ridati i 100, che in realtà aveva messo solo quello, non ha nessun motivo, non ha nessuna motivazione per un giorno ammettere il proprio errore, il proprio peccato. Nel momento in cui noi diciamo tutto viene trattenuto dal Bet Din, forse un domani lui arriverà con la coda tra le gambe e dirà: sapete cosa? Ho fatto un errore, ho fatto uno sbaglio, ho peccato, mi pento, e in realtà io ero quello che ho dato solamente 100. Molto bene, il Bet Din dirà: bravo, hai fatto bene ad ammettere i tuoi errori, non sbagliare di nuovo, non peccare di nuovo, e la cosa diventerà chiara, l'altro riceverà 200, lui riceverà 100. Questo dice Rabbi Yosè. Se il furbo, se chi inganna non ha nessuna motivazione per ammettere il proprio errore, allora non è una soluzione buona. Infatti Rabbi Ovadia di Bertinoro, nel commentare questa Mishnah, cosa dice? Mai sidara mai, cosa ha perso il furbo? Uleolam lo yodea laemet. Se non perde nulla, non ammetterà mai la verità, non ammetterà mai la propria colpa. E per questo Rabbi Yosè dice: no, trattieni tutto. Molto bene, ora abbiamo una discussione tra il Tanakam e Rabbi Yosè, tra i maestri, la maggioranza dei Chachamim e l'opinione minoritaria. E abbiamo capito un po' la logica di entrambe le posizioni. L'alahà, in questo caso, segue la maggioranza. Non l'opinione di Rabbi Yosè, ma segue la maggioranza, che noi sì cerchiamo di minimizzare la parte sulla quale c'è conflitto e ridiamo ad ognuno 100. Rimane lì solamente l'altro 100. Ora la Mishnah successiva, che è la quinta Mishnah del capitolo, racconta un caso molto simile, anzi sembra proprio identico, ma non con denaro, bensì con oggetti, riguardo oggetti. Ora vediamo anche perché la Mishnah deve ripetere qualcosa che sembra essere uguale, perché in realtà lo stesso che abbiamo detto riguardo al denaro potremmo dire riguardo a due oggetti, e leggiamo quanto ci dice la prossima Mishnah, Mishnah Hei, la quinta Mishnah. Vehen, e così anche, quindi la Mishnah dice direttamente, qui c'è un caso analogo, molto simile, Shnei Kelim, se al posto delle due somme di denaro ci fossero due oggetti. Echad Yafe Mane, uno dei due ha il valore di 100 Mane, Echad Yafe Elef Zuz, e l'altro vale 1000 Zuz, cioè 10 Mane. Di nuovo, Reuven e Shimon hanno affidato a Levi dei loro oggetti. Ok? Dovevano andare in un posto, per esempio, facciamo un esempio moderno, dove non si possono usare i telefonini, non si possono portare i telefonini. Allora cosa hanno fatto? Hanno dovuto dare a salvaguardare al loro amico Levi. Uno ha dato un Nokia che vale 100 euro e l'altro ha dato l'ultimo iPhone che vale 1000 euro. Questo è il caso. Tornano a riprendere i propri beni. Facciamo finta che sono telefonini nuovi, perché sappiamo che col telefonino è facile identificare il proprietario. Ok? Allora fingiamo che sono nuovi. Zeomer Yafesheli, Zeomer Yafesheli. Arriva di nuovo il furbo tra i due, tra Reuven e Shimone, e dice: quello migliore è il mio. L'altro anche dice: quello migliore è il mio. Cosa risponde la Mishnah? Come trattiamo la situazione? Di nuovo il Tanakama seguirà la stessa decisione alla quale è arrivato nella prima situazione che abbiamo citato. E cioè leggiamo: Noten et hakatan le echad mehen, da il oggetto di valore minore, letteralmente hakatan, il piccolo, a uno dei due, e poi gli rimane in mano quello di valore maggiore. Cosa ci fa? Un mitoch hagadol, vende l'iPhone che vale 1000 e da quel denaro ricavato Noten et demei hakatan lasheni, dà il valore del denaro del piccolo all'altro. Quindi a Reuven dà il Nokia che vale 100 euro, L'iPhone lo vende, prende 100 euro del ricavo e lo dà a Shimon, quindi Reuven e Shimon ricevono entrambi lo stesso valore. Cosa rimane con i 900 rimasti? Cosa ne sarà? Ve'asheariyeh emunacha chi'avo Eliyahu. Gli diamo in mano al Beit Din che devono salvaguardarli fino a prova contraria, finché viene Eliyahu Hanavi e chiarisce, oppure un'altra prova contraria. Di nuovo Rabbi Yosei interviene per discutere questa decisione dei Chachamim e dice a Rabbi Yosei, in ken mai fsidera mai? Di nuovo, cosa ha perso quello furbo? Che motivazione avrà? Che spinta avrà per venire un giorno ad ammettere il proprio peccato? Ela accoglie e munacha ci avò Eliyahu. Anche qui dice, tieni sia il Nokia che l'iPhone finché avò Eliyahu. Ora, prima di tutto, il caso ovviamente è lo stesso, solo con la piccola differenza che qui va venduto il bene per poter ricavare il valore e fare la spartizione in quella maniera che abbiamo detto, secondo il Tana Kamma. Anche in questo caso seguiamo la stessa logica, il Tana Kamma è dell'opinione che va minimizzato il più possibile il contestato. Il bene contestato, il valore del bene contestato va minimizzato. Senso che se c'è qualcosa sulla quale siamo d'accordo, intanto togliamo di mezzo quell'elemento lì. E rimaniamo con la parte contestata. Quello è il problema. Il resto non è più un problema. Dobbiamo cercare di minimizzare la cosa sulla quale si discute. E Rabbi Yosei rimane della sua idea che bisogna creare una situazione in cui chi voleva fare il furbo, in qualche maniera, prima o poi dovrà avere almeno una scusa, almeno un motivo, che non è solamente la sua coscienza, per dire, basta, vado ad ammettere il mio errore. Ora, cosa c'è di nuovo in questa seconda casistica rispetto alla prima? Sì, lì abbiamo parlato di denaro e qui parliamo di un oggetto. Perché questa ripetizione? La Mishnah, attenzione, credo che l'abbiamo spiegato nell'introduzione al corso, la Mishnah non fa dei discorsi così a caso. Se la Mishnah c'è un motivo per cui la Mishnah ci vuole dire che la cosa si applica non solo al denaro ma anche ai beni, allora la Mishnah potrebbe dire la stessa cosa si applica ai beni. Invece la Mishnah ripete un caso, cioè crea un nuovo caso, ripete le discussioni, i maestri ridiscutono su questo. Perché? Il Rambam spiega, nel suo commento sempre alla Mishnah, che con questo i Chachamim ci vogliono far capire nella Mishnah fino a che punto i maestri, fino a che punto è importante per i maestri l'idea che hanno voluto esprimere di appunto di nuovo minimizzare la cosa sulla quale c'è sulla quale c'è conflitto. La cosa contestata deve essere minimizzata il più possibile. Ciò che si può chiarire va chiarito. Anche fino al punto del caso in cui va venduto l'oggetto, che è più estremo rispetto a solo nel caso in cui c'è solo il denaro e si risarcisce solamente una parte e si tiene da parte l'altra. Qui stiamo parlando della vendita della cosa stessa. Addirittura, secondo alcuni commentatori, se noi guardiamo Rashi e la Gemara, per esempio, si tratta di degli oggetti che addirittura l'oggetto più importante potrebbe essere, senza danneggiarlo, in maniera che poi non è più utilizzabile, si può addirittura non solo vendere e dal ricavo fare una spartizione, ma addirittura togliere un pezzo di quell'oggetto eventualmente. Quindi parliamo di qualcosa di più estremo rispetto alla spartizione del denaro di cui parlavamo prima. E anche in questo caso i maestri dicono si ricorre alla stessa soluzione. Il Rambam spiega, la Mishnah ripete, sembra ripetesse una seconda volta il caso, parlando dell'oggetto, perché? Perché c'è qualcosa di più che impariamo. Cito il Rambam, la Mishnah Cita il secondo caso, shelo tomar, perché tu non dicessi. Hoilu bazo atvia yafsid bal kli gadol alav. In questa situazione il proprietario dell'oggetto più importante avrà una perdita più importante. Perché? Perché oltre al valore perde anche l'utilizzo dell'oggetto stesso. Lefishu mafsida kli atzmo, perde l'oggetto stesso. Venotenlo kzadamav e gli dà solo una parte del valore. Allora in questo caso dice Yushneem unachima cevo Eliyahu, l'opinione di Rabbi Yosè è che non si tocca l'oggetto, gli oggetti non si toccano, ma rimangono lì, che deshi yodea ramai mehem alaemet, così quello dei due che è furbo, che è quello che vuole ingannare, che è quello che vorrebbe rubare, lui avrà un motivo per ammettere la verità. La Mishnah ci dice che noi non prendiamo in considerazione la perdita dell'utilizzo del bene o la perdita del possesso del bene, che è diverso dalla perdita di denaro. Comunque arriviamo alla stessa conclusione che abbiamo detto prima. Uno perde una parte, l'altro perde, l'altro non perde. Quello furbo, secondo i Chachamim, secondo il Tanakama, alla fine non perde. E in questo caso, per ricapitolare, nel caso in cui si contesta una parte di una somma di denaro, la domanda è se è bene fermare tutto e mettere tutto da parte per dare motivazione al ladro di farsi avanti, oppure se è meglio cercare di minimizzare il più possibile la somma e il valore di quanto è contestato. E la Mishnah decide come la maggioranza, come nella maggior parte dei casi si va secondo la maggioranza, e anche qui non si segue l'opinione di Rabbi Yosè, bensì l'opinione dei Chachamim. E abbiamo quindi imparato dei concetti nuovi che rivedremo in altre situazioni nella Mishnah e nel Talmud, che sono l'idea di un bene o di una somma che può rimanere fissa nel Bet Din fino a prova contraria, e quindi ad sheyavo Eliyahu, finché Eliyahu Navi verrà a sciogliere i dubbi, verrà e scioglierà i dubbi, e siamo stati introdotti al concetto che secondo Rabbi Yosè, anche se in questo caso non è andato in porta, in porto la sua idea, cioè quella che bisogna creare una situazione in cui il furbo avrà un motivo per ammettere il proprio errore, e appunto di nuovo l'idea che, come poi la halakha sarà decisa in questa Mishnah, di minimizzare il più possibile l'aspetto contestato. Alla prossima lezione, Bezrat Hashem.